Ad alta voce, edizione 20 anni. Galatea Ranzi legge Panorama di Tommaso Pincio. Mangiare e bollette, Ottavio Tondi doveva preoccuparsi di poco altro. Si arrangiava con quel che già aveva, oppure con acquisti nei grandi magazzini nelle stagioni dei saldi. Quanto al resto, niente teatro, niente cinema, ovviamente niente più libri. Anzi, capitava ogni tanto che ne vendesse qualcuno, prime edizioni e altre rarità che seguitavano ad avere un valore tra i collezionisti malgrado i tempi d'oro della bibliofilia fossero terminati da un pezzo. Nessuna di queste rinunce gli pesava perché non le viveva affatto come rinunce. Avrebbe vissuto a quel modo anche con mezzi maggiori. Le donne tuttavia gli mancavano. Non era tanto il sesso in sé che col tempo lo interessava sempre meno. Era il ricordo di Maddalena. Per parecchi mesi pattugliò il quartiere dell'Eur, limitandosi a guardare le ragazze da lontano. Gli bastava individuarne una che assomigliasse a lei. Si fermava e le chiedeva quanto volesse, senza nessuna vera intenzione, solo per poterla osservare da vicino qualche istante, valutare la somiglianza. Sempre per la stessa ragione, fingeva di mercanteggiare. A volte restava colpito dall'italiano di alcune ragazze dell'est. Preferiva le ungheresi dai capelli neri, perché erano quelle che più somigliavano a Maddalena. Ma non era così facile trovarne. Per lo più erano albanesi, romene, ucraine, finché individuò una ragazza che avrebbe potuto essere la copia sputata di Maddalena, non fosse stato per l'altezza. Negoziò più a lungo del solito, la guardò bene. Non era soltanto più alta, era anche più giovane, molto più giovane. E questo lo metteva a disagio, come lo disturbavano altri aspetti, il trucco, alcuni lividi su braccia e collo, uno sguardo che diceva cose che lui non voleva udire. Però era davvero identica a Maddalena e si congedò a fatica da lei, dicendole che ci avrebbe pensato. E ci pensò. Non fece che pensare a lei sulla via di casa. E proprio mentre cercava parcheggio nelle strade adiacenti a Piazza Vittorio, decise di tornare all'Eur. Non la trovò. L'aspettò nel punto in cui l'aveva vista battere, ma lei non venne. Non la trovò neppure nei giorni seguenti. Si rassegnò alla sua sparizione, ma non al vuoto che gli aveva lasciato, mettendosi in cerca di un'alternativa, di un compromesso accettabile. Gli sembrò di averlo trovato, ma fu una cosa orribile. Per tante ragioni che è facile immaginare. Ma mentre osservava la testa che aveva tra le gambe, rivide non tanto la testa di Maddalena, ma la sua casa, le cene, le ore davanti alla televisione e soprattutto la voce di quando lei gli leggeva qualcosa. Convincere una ragazza a venire a casa non era così scontato. Di quando in quando, però, Tondi si toglieva lo sfizio. Le ragazze restavano immancabilmente di sasso appena entravano. «Quanti libri?» dicevano. Nessuna di loro ne aveva mai visti tanti tutti assieme. Ma ognuna aveva una storia da raccontare riguardo ai libri. Lui le lasciava parlare. Le invitava a farsi un giro per casa. Voleva che si sentissero a proprio agio e rassicurate prima che lui spiegasse loro cosa dovevano fare. Erano abituate a ben altre stranezze, ma non sempre accettavano di ripetere l'esperienza quando lui glielo proponeva. E se qualcuna rifiutava, lui le chiedeva perché, se quella cosa la disturbava o se fosse lui il problema. Le risposte erano sempre evasive, il che era una mortificazione ulteriore. In teoria non avrebbe dovuto prendersela tanto, ma era più forte di lui. Quei rifiuti riaprivano la vecchia ferita. Gli facevano rivedere la smorfia di Maddalena. Se trovava una ragazza disponibile e con una pronuncia gradevole, se la teneva stretta, pagandola bene. La usava per farsi leggere quei libri, ed erano tanti, che non gli tornavano alla memoria girando sul raccordo. La invitava a cena. Dopodiché si sedevano sul divano e le chiedeva di leggere. Leggere e basta. Quando la voce della ragazza cominciava a spezzarsi, a perdere di tono o impastarsi, il che accadeva all'incirca dopo una mezz'ora, la portava in camera e le chiedeva un ultimo sforzo, di leggere ancora un po'. Le ragazze con le quali ebbe un rapporto duraturo non furono molte, 4 o 5 al massimo, e tutte ungheresi. Con loro rilesse libri per lui importantissimi, un paio di Dostoevskij, Diario dell'anno della peste, Partenza in gruppo di Henry Green, Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Dopo un periodo di grande entusiasmo, le cose tornarono a volgere al peggio. Quando Mario Esquilino entrò in scena, il quadro appena descritto presentava ormai le sue crepe. 7 anni condotti a quel modo non passarono senza lasciare segni. Guidare sul raccordo aveva cominciato a pesare. Tondi resisteva al massimo un paio di ore, poi doveva rientrare. Per giunta, la guida non portava più i frutti di un tempo. Le pagine che riaffioravano erano sempre meno e sempre più spesso Tondi rientrava a casa senza uno straccio di frase da appuntare. Quanto alle ragazze dell'Eur, si mostrarono sempre più sospettose e meno disponibili, fino a negarsi del tutto, ad allontanarsi appena scorgevano la sua auto. Un mattino, uscendo di casa, fu avvicinato da una coppia di energumeni dell'Est. Lo strattonarono, lo minacciarono. Gli dissero di non farsi più vedere sulle loro strade, di stare lontano dalle loro ragazze. Tondi si domandò cosa avesse fatto di male o di sbagliato, ma in realtà lo sapeva bene. Col tempo aveva smesso di trattarle con generosità. Pagava lo stretto indispensabile e tirava sul prezzo. Non si preoccupava più di metterle a loro agio. Chiedeva subito e bruscamente ciò che voleva. Niente cortesie, niente cerimonie. Non era più interessato a loro come a persone, né le associava più al ricordo di Maddalena. Per lui non erano che una voce e un corpo, e si limitava a servirsene per come le considerava. Per dirla come va detta, il suo comportamento era sempre più dissociato, sempre più strano, e loro si impaurivano. Temevano che un giorno o l'altro potesse succedere qualcosa di brutto in quella casa piena di libri, anche se i libri erano sempre meno. I buchi nei suoi scaffali aumentavano. Ora che le librerie non esistevano più, la lettura era diventata una passione pericolosa e clandestina, e anche un comunissimo tascabile aveva il suo valore sul mercato nero. I buchi negli scaffali servivano a riempire quelli del conto in banca. Era all'incirca questo il nuovo quadro, al momento in cui Mario Esquilino entrò in scena. Ottavio Tondi sedeva al solito posto, al chiosco di Piazza Vittorio. Non era un mattino di primavera ingannevole, ma un tardo pomeriggio di giugno inoltrato. Tondi era al terzo o quarto Campari e non pensava a nulla, per come può non pensare a nulla un uomo occidentale intontito dall'alcol. Si sentì chiamare per nome e cognome. Faticò perfino a capire da dove provenisse la voce, figurarsi se riconobbe la figura asciutta e scattante dell'uomo che si accomodò al suo tavolo chiedendo «Come va?». Esquilino finse di non accorgersi che Tondi non aveva la minima idea di chi fosse e finse anche di non aver notato il suo stato pietoso. Tondi non poté che fingere anche lui e, seppure controvoglia, salutò. Disse che andava bene, non benissimo, ma bene, per quelli che erano i tempi. Esquilino disse che lo capiva. Del resto, erano ormai tutti sulla stessa barca, no? Tondi lo guardò. «Ma sì», riprese Esquilino. «Per causa tua, ho passato momenti davvero pessimi, lo sai. Ma che importa adesso? Ci ho sofferto, non posso negarlo. Come non posso negare di averti odiato. Il tuo verdetto di lettura fu molto severo, diciamo pure crudele». Esquilino andò avanti a quel modo per un po', raccontando cosa avesse patito, quanto era stato penoso non trovare un editore disposto a pubblicarlo, e tutto perché lui, Ottavio Tondi, il grande lettore, aveva espresso un parere negativo. Concluse lo sfogo, riconoscendo che forse era stato meglio così. Non era meglio essere rimasto inedito, vista la fine che avevano fatto libri e scrittori? Prima che Tondi potesse pensare a qualcosa da dire, fosse anche soltanto una banalità di circostanza, Esquilino tornò a domandargli come andasse. Lo vedeva un po' giù, infatti. Gli era forse successo qualcosa? Dopo la brutta storia di Ponte Sisto, non aveva saputo più nulla di lui. Anzi, a proposito, si era poi ripreso da quel trauma? Tondi si morse il labbro. Dopodiché si aprì in un modo che non era da lui, forse per l'imbarazzo, per il senso di colpa. Perché anche se non aveva idea di chi fosse l'interlocutore, sapeva di avere cassato montagne di manoscritti. O forse proprio perché aveva perso l'abitudine di confidarsi con altri esseri umani. Fatto sta che gli raccontò di quei 7 anni e di come avesse scoperto che non era più in grado di leggere, di come avesse tirato avanti. Non gli disse del raccordo, ma gli parlò di Maddalena e delle ragazze dell'Eur. Esquilino sospirò, scosse il capo, ma non commentò. Tondi si sentì allora in dovere di giustificarsi, di trovare una scusa che lo assolvesse almeno in parte. Disse di essere tormentato dai dolori. Da quella notte non aveva conosciuto pace. Vivere dentro un corpo malmenato era un'esperienza che non augurava a nessuno. Esagerava. Il pestaggio non aveva lasciato strascichi fisici. I suoi acciacchi rientravano nella normalità di un uomo che si avvicina alla cinquantina, ci conviveva senza grandi patimenti. Esquilino sospirò di nuovo e tornò a scuotere il capo, ma in maniera diversa stavolta. Per qualche secondo entrambi restarono in silenzio a guardare il traffico della piazza. Poi, col tono di chi è immerso in un sogno tutto suo, Esquilino disse: «Hai mai provato con la marijuana?» Tondi trasalì, non sicuro di avere capito bene. «La marijuana è per cosa?» «Come per cosa? Per i dolori?» «Ah, pensi possa servire?» «Non lo penso, lo so». Sebbene non fosse quello il suo vero problema, considerò il suggerimento. Era giunto a uno stallo totale. Che valeva seguitare così? Aveva bisogno di una sterzata, una novità che lo scuotesse, che lo strappasse a quel sentimento di indifferenza, di disinteresse verso qualunque cosa. Potrà sembrare assurdo, infantile, che una persona di mezza età pensi di ritrovare entusiasmo e voglia di vivere nella droga, non avendo la minima esperienza di cosa significhi drogarsi. Eppure questo accadde. Il semplice udire la parola spacciatore gli fu sufficiente per elettrizzarsi. E mentre Esquilino gli forniva ragguagli, lui si raffigurò un mondo sordido, da romanzo, nel quale si viveva sempre sul filo, sospesi tra il losco e l'artistico. Non mi soffermerò sui benefici che Tondi effettivamente trovò o credette di trovare, perché è un aspetto che ognuno potrà verificare da sé leggendo il carteggio digitale con Ligeia Tissot. In questa mia introduzione è sufficiente dire che si lasciò tentare. E tali furono gli universi che gli si aprirono, tali i piaceri, da sentirsi in debito. Inoltre, quanto al procacciamento della sostanza dipendeva totalmente dal suo iniziatore. Benché sedotto dal sentore romantico di illegalità, Tondi era troppo pavido e troppo per bene per stabilire contatti diretti. Avvertiva un senso di vertigine al solo pensiero. Dovette perciò rassegnarsi a frequentare Mario Esquilino. Si vedevano sempre al solito posto, alla stessa ora, all'imbrunire, al chiosco di Piazza Vittorio. Per Tondi era un grande sacrificio. Più lo conosceva, infatti, meno lo sopportava. Detestava tutto di quell'individuo, a cominciare dal suo aspetto fisico, il suo viso da attore irsuto, quell'aria torva e folle ma seducente, il fisico tonico nonostante i suoi 50 anni. L'essere, insomma, l'esatto contrario di quel che era lui. Lo faceva sentire più flaccido e inadeguato di quanto non si sentisse normalmente. E poi le sue chiacchiere, la sicumera, le certezze di cui era sempre prodigo, qualunque fosse l'argomento in questione. Tondi non sapeva mai cosa ribattere, anche perché nel torpore allucinato in cui lo gettavano la marijuana e i campari gli risultava impossibile avanzare obiezioni di senso compiuto, e se per caso o per sbaglio gli pareva di aver messo a fuoco qualcosa da dire, al momento di aprire bocca si rendeva conto che il suo interlocutore era già saltato a un nuovo argomento, a un nuovo insegnamento di vita. A Tondi non restava che la parte muta e passiva dell'allievo. Sicché quando Esquilino cominciò a parlargli di panorama, spiegandogli che non poteva non farsi un profilo perché quel social sarebbe stata la soluzione ai suoi problemi, Tondi, all'udire la parola social, avrebbe voluto sbottare di sdegno, ma poté soltanto chiedere: «E come si fa un profilo?» Galatea Ranzi ha letto Panorama di Tommaso Pincio, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.